13, dove armi le proprie navi e si sciolsero nevi in grande pianto, dove a giugno le andri fan grammazzi di sé e specialmente rosa, bianchi, qua dove le vie specialmente si infrattano, curvano verso est, qua un ragazzo, una sera di tarda primavera, s'è giocato la testa. Nello sghembo budello d'una strada fra campi, dinanzi a un muro d'olivi e peri, in faccia grumi e lievi discariche, trapassando da tempia a tempia la propria foga di vivere. E peraltro esile indagine a srotolarsi da qui, dagli oleandri, dai suoi 14 anni, dall'arma, dal gioco, dalla musica, da quel molto, quel poco che gli gravava d'essere divenuto quell'atto solo, quell'assuolo notturno, quell'amoroso diurno complice d'obbedienze e occlusioni, pianò le feste, misteriose paure, interne sepolture, lacrime, troppo leggeri amori, confidenze, sudori. E quello sparo che alfine spacca la testa, poi più niente, e buio, e basta.